se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Cosa intendete voi per essere leggeri? Come definite una persona leggera? Quando pensate che una persona meriti l'appellativo di essere leggera? Ragioniamo un po' su questo termine, perché sembra che la nostra civilizzazione insegua come un bene di estremo valore la leggerezza dal punto di vista fisico. Una persona fisicamente importante è una persona che ha un problema comunque. Il modello estetico più inseguito è quello di una figura leggera, di una figura snella, di qualcosa che fisicamente non dia l'idea di massa. Ma allo stesso tempo, se la leggerezza è applicata a una condizione interiore, a uno stato dell'animo, a una vivacità mentale, è considerata un limite. Una donna leggera non ne parliamo, una donna leggera è una che la dà a chiunque, è una che nessuno vorrebbe mai come compagna di vita o come madre dei propri figli, è una ragazza un po' leggera. Dio mio, è un anatema terrificante su una donna l'essere leggera. In realtà le donne leggere sono quelle con cui si passano momenti più piacevoli, sono quelle che ti fanno dimenticare la pesantezza stratificata del mondo che ti circonda. Eppure hanno l'anatema, hanno la lettera scarlatta dell'essere leggere. Ma non parliamo poi di un uomo leggero. Affidereste mai il budget della vostra azienda a un amministratore leggero? No, una persona leggera, quello è leggero, come è un bravo ragazzo, però sai, è un po' leggero. Significa che non ha quel volto grave, non ha quell'aplomb quotidiano, non ha quella ciglia aggrottata, non ha quella continua ansia di essere sempre adeguato al ruolo che lui occupa, non è serio nei suoi rapporti, non va oltre quelle che sono le regole del confrontarsi con altre persone. Non sorride quando sembra gratuito un sorriso, non rivolge la domanda pertinente all'argomento di cui si deve occupare, insomma non sorprende. Chi non sorprende è leggero, chi dà mai il fianco a una infelice e improvvisa entrata dell'irrazionale in un luogo di lavoro, in un insieme di persone, in una riunione importante, è considerato una persona leggera, quindi non affidabile. Ma invece questa mattina dovremmo riflettere sul valore della leggerezza, su quanto sia possibile sfiorare anche la profondità più complessa con un passo leggero, quanto la leggerezza sia la vera arma, la vera formula vincente nei rapporti umani, quanto sorprendere leggermente quelli che sono i valori rappresentati da una tradizione impugnata alle persone che abbiamo incontro significa leggermente uscire da una situazione intricata. Quanto riuscite durante la vostra giornata a compiere questa conquista difficilissima di attimi impalpabili di leggerezza? Elogio della leggerezza. Non ho tempo, non ho spazio, mi sento oppressa. Non ho tempo soprattutto, non ho mai tempo per fare le cose che devo fare. Non ho tempo per ascoltare le persone che devo ascoltare, per dire le cose che devo dire, per dedicare tempo appunto alle mie cose, a chi mi è caro nella vita vera, quella che inizia alle 8 di sera e termina alle 8 di mattina. Non ho spazio. Non ho spazio per me, per le mie cose, per i miei libri, per la mia famiglia, per le mie passioni. Spesso neanche per i miei pensieri. Non ho spazio in casa. Non ho spazi a sufficienza. Allora butto via. Butto via tutto. Quanto ho di utile e superfluo, caro, banale e prezioso, vecchio e nuovo, piccolo e grande. Mi sento pesante. Per avere dei supporti di riflessione a questo programma abbiamo scelto la più leggera delle maniere. Abbiamo colto qua e là, ci siamo buttati alla deriva della ricerca in un motore, appunto, nella rete internet della parola leggerezza. E ciò che abbiamo portato a bordo è stato questo sfogo di un blogger, di una blogger, di un essere umano che affida la rete come se mettesse un messaggio in bottiglia, anche se è una banalità a dirlo, questo suo desiderio di sentirsi leggero. Da dove inizia la conquista alla leggerezza, che è naturalmente uno stato interiore, è una soavità dell'anima, è un evaporare i propri pensieri, lasciando che esse vadano lontani, non ci opprimano le meningi? Beh, comincia da liberarsi da alcuni oggetti inutili. La prima conquista per la leggerezza dell'anima è liberarsi dalla pesantezza degli oggetti che ci circondano. È una riflessione che sembra campata in aria, sembra una banalità, un'elucubrazione, una pippa mentale, come si dice con un termine molto più comprensibile. Ma pensate che noi siamo veramente in degli ambienti in cui viviamo, ambienti concreti, degli spazi che dobbiamo conquistarci ogni giorno con la famiglia, con i nostri conviventi o anche semplicemente con i vicini la cui presenza trapela attraverso le pareti, oppressi da delle barriere fisiche. Una persona che ha dei problemi di muoversi, una persona con delle disabilità manifeste, naturalmente conosce il dramma delle barriere architettoniche. Anche chi è normodotato, chi ha il perfetto uso e controllo dei propri arti, la propria possibilità di muoversi nello spazio, comunque ha delle barriere architettoniche. Una sono gli spazi angusti in cui viviamo, in cui conviviamo, in cui lavoriamo, in cui ci muoviamo, luoghi sempre pieni di persone che sono universi a sé, universi staccati, persone che sembrano aver dimenticato ogni possibilità di leggerezza, persone assorte. Io guardo ogni mattina nell'autobus che prendo una sorta di dress code, cioè di maniera di essere vestiti e acconciati per quel luogo, per quel passaggio, in una certa maniera, persone con le cuffie alle orecchie. Sono universi staccati, universi sonori viventi a se stessi. Impossibile essere leggeri, non è un'astrazione, è un aggiungere peso alla pesantezza della situazione. E questa persona che ha scritto nel blog che lei comincia a liberarsi dagli oggetti inutili, è una necessità. Non abbiamo più spazi, i nostri armadi traboccano, ne abbiamo già parlato, parlando di consumi, parlando di crisi, e i nostri cassetti non sembrano più contenere i supporti alla nostra memoria che vogliamo mettere dentro. Lo stesso hard disk del nostro computer ogni tanto strabocca, ogni tanto dà segni di stanchezza, dobbiamo sempre fare dei continui upgrade, aggiungere memoria. Perché? Perché non riusciamo a essere leggeri, perché vogliamo sempre portarci dietro un fardello, abbiamo sempre bisogno di qualcosa di concreto che ci dia sicurezza e tranquillità. Ecco, abbandonare questa sicurezza e cominciare a buttare via roba probabilmente è una prima strada per sentirsi leggeri. Sento tutte le responsabilità del mondo sulle mie spalle, quasi fossi una creatura mitologica che deve trasportare sulle sue spalle 2, 3, 5 mondi interi. Non mi riesce più di gioire delle piccole cose. Mi sento oppressa, pesante, e non va bene, perché penso che la vita debba essere leggerezza, non il contrario. Voi la pensate come me? Allora avete bisogno d'aria, di sole, di sorrisi, di tempo, di calma, di serenità. Sembrerà banale dirlo, ma in realtà è così semplice. I valori che più di ogni altro ci renderanno felici nel prossimo futuro sono proprio questi: spazio, tempo e tanta leggerezza. Sprofondare per il troppo peso delle responsabilità, ci sono già passata, mi scrive Anna su Facebook. Mi piacerebbe prendere le cose con più leggerezza, forse relativizzando alcuni dati con ironia, o perché no, avere un pizzico di buon umore. Ecco, questa è una delle tante possibilità che ci sono, presa da un momento rubato dalla vita di un nostro ascoltatore. 800240024, quello che chiedo questa mattina è di sospendere per un istante le attività quotidiane che appesantiscono, pur nella piacevolezza delle infinità di possibilità che si hanno ogni giorno, di avere relazioni, di avere possibilità concreta di vedere realizzate le proprie speranze, i propri pensieri, di fare incontri fortunati, sospendere per un attimo e inseguire, se possibile, la formula della leggerezza. Cosa significa per voi abbandonarsi alla leggerezza? La leggerezza è un valore, o come abbiamo già detto all'inizio, è un detestabile stato di superficialità, è una maniera per non essere adeguati, per sfuggire alle proprie responsabilità. Oggi gli uomini non sanno più prendersi delle responsabilità, abbiamo detto quando parlammo dei quarantenni. Sono degli eterni bambinoni, non hanno la possibilità di far capire a se stessi, al mondo, che sono cresciuti e pronti ad accollarsi tutto il peso della loro età. Ecco, Perché la vita deve essere un peso? Perché anche ciò che normalmente fa parte del tedio, del dolore, della sofferenza, della complessità, non può essere preso con leggerezza? Perché la leggerezza non può essere una via di fuga? Beh, questo è quello che mi aspetto da voi, perché io non ho la formula di risoluzione di questo problema. Io sento che la leggerezza è un valore. Io so che i momenti più felici della mia giornata sono quelli in cui mi sento leggero. Io so che ci sono degli incontri fortunati, persone che si incontrano per la prima volta, ma anche persone che, con le quali si divide in maniera anche abitudinaria la propria vita, ti possono dare dei lampi di leggerezza. La leggerezza è un attimo fulminante, un attimo nel quale noi sbattiamo la faccia e molte volte deviamo, fuggiamo, perché abbiamo paura della leggerezza. Preferiamo indossare il plumbeo abito della persona che è pesante, quindi è ponderata, quindi è profonda e quindi è attendibile. Perché vogliamo essere sempre attendibili? Una formula di risoluzione di questa equazione potrebbe essere quella che noi abbiamo appena sfiorato in una settimana fa circa, in una puntata in cui parlammo della gioia di tornare bambini. Immaginiamo che abbiamo passato noi un'età felice in cui tutto era leggero, anche se poi non è vero, avete visto, i ricordi della fanciullezza erano ricordi di profonda oppressione. Il bambino ha un filtro implacabile, molto più del nostro, che molte volte siamo attenti tutiti dalla necessità di avere rapporti civili con il mondo, dalle asprezze di ciò che ci circonda. Un bambino le vede tutte, le sente tutte, quindi non è che un bambino sia leggero. Però esiste questa idea comune che se noi tornassimo bambini o inseguiamo il bambino dentro di noi, possiamo tornare a apprezzare la leggerezza come un valore. Tanto si è riflettuto su questo tema che in questi giorni, avrete visto i trailer, si sta molto parlando di un film che è Il curioso caso di Benjamin Button, che è un film diretto da David Fisher, che è ispirato a un racconto breve del 22 di Francis Scott Fitzgerald, che parla appunto di una storia meravigliosa, di un bambino che nasce vecchio. Nasce dal ventre di sua madre come fosse un vecchietto grinzoso di 90 anni. E man mano che cresce, questo bambino diventa giovane, va alle scuole medie, è un vecchietto che tutti guardano con orrore, come se fosse una malattia. Qualche anno fa al Costanzo Show c'era una bambina che aveva questa malattia molto rara in cui si diventa vecchi, a 15 anni se ne dimostrano 150. Qua è lievemente diverso, è un ragazzo, un bambino che ha la faccia da vecchietto. Man mano che cresce diventa un bel ragazzo, diventa giovane, e la sua compagna di scuola, l'amichetta, la fidanzatina, l'innamorata, che era sua coetanea, che portava per mano questo vecchietto bambino quando avevano la stessa età per giocare, man mano che cresce la invecchia. Si troveranno un punto felice in cui entrambi sono in età di amore, di accoppiamento, perché avranno circa 30 anni, entrambi dimostrano i 30 anni, ma passeranno gli anni, poi lui dimostrerà 20, ne dimostrerà 15, lei dimostrerà 40, 50. Alla fine di questo film ci sarà questa amara immagine di lui nel fulgore della giovinezza che si porta per mano questa vecchietta che è stata la donna che ha amato per tutta la vita. Il mio nome è Benjamin Button e alla mia nascita si verificò una circostanza insolita. Mentre tutti gli altri invecchiavano, io unico diventavo più giovane. Sei così giovane? Solo in apparenza. Il corpo non è di un neonato, ma di un uomo oltre gli 80 con un piede già nella fossa. Morirà. Di vecchiaia. Quanti anni hai? 7, ma sembro molto più vecchio. Dio ti benedica. Francesca mi sta segnando, incollando in questo momento, una parte del suo blog intitolato Lieve come la seta. Lo leggo mentre lo leggo ad alta voce, non so di cosa si tratti. Comunque lo leggo perché è il suo suggerimento, la possibilità di riscoprire il valore della leggerezza senza essere accusati di essere persone leggere, quindi irresponsabili, quindi con qualcosa in meno rispetto alla facoltà umana di affrontare la complessità dell'esistere. Lieve come la seta è ciò che vorrei fosse la mia vita per me e per gli altri. Accarezzare me stessa e gli altri non provocando turbamento, ma solo la sensazione dolce di qualcosa di fresco e delicato che non ti costringe a soffermarti. Se vuoi, non è un desiderio, non è una pretesa, concedetemelo. Beh, lo trovo meraviglioso, questo senso che anche l'accarezzarsi, anche l'avere un rapporto fisico che in realtà poi presuppone una risposta, possa essere fatto con leggerezza, in cui l'unico e meraviglioso istante è quello del piacere di essere leggermente vicino a un'altra persona. Non sapevo di essere un bambino. Credevo di essere un vecchio nel crepuscolo della vita. Benjamin, hai un aspetto straordinariamente giovanile. E se vi dicessi che io, invece di invecchiare, diventavo più giovane di tutti gli altri? Che cosa si prova a ringiovanire? Non saprei dire. Io mi vedo sempre con i miei occhi interiori. Questo era Benjamin Button, che si trova ad affrontare il problema che lui diventa sempre più leggero e crescendo, invecchiando, pensate se fosse una metafora applicabile su di noi, non legata a trasformazioni fisiche improbabili, ma noi acquisissimo con la maturità e con l'esperienza di vita la capacità di essere leggeri, non la capacità di essere pesanti. Dio mio, la mia età, i miei anni che pesano, che volete, aggrotto la fronte. No, e più cresco, più mi abbandono volentieri a momenti irrazionali, sono momenti di vera felicità. Mi scrive Silvia: forse come per il volare, dopo una certa età, non sempre anagrafica, accumulare troppi pesi, angoscia, sensi di colpa, ogni cosa è greve. Solo in pochi magici momenti riusciamo a liberarci da queste zavorre. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei come si è liberato dalle zavorre della vita? Senta, io sono molto più banale dei suoi precedenti ascoltatori. Beh, no, quindi è leggero. Sì, probabilmente. Cioè, mi sono liberato nel senso che avevo una casa piena di libri, di carte, e me ne sono liberato perché mi sono accorto della inutilità di tenere tutti questi libri. Beh, noi abbiamo cominciato così, guardi. Ho ridotto i mobili. Ho eliminato da moltissimi, da anni, il cellulare, il telefonino, e una cosa stranissima, quando ho finito di lavorare non ho più frequentato certi ambienti per passeggiare, ma altri. Cioè, quando lavoravo per passare da una cosa più leggera, andavo per i parchi, per Villa Borghese, perché sarò. Invece da quando sono in pensione, passeggio per la città perché con estrema leggerezza mi pare quasi di volare in mezzo a questa gente, queste luci, questi colori. E anche quando mi sono pensionato ho fatto anche un'altra cosa, ascolto più musica leggera che poi non è leggera, ma che mi parla. Quindi lei, come Benjamin Button, in realtà lei è un bambino. Parlo di musica. No, in realtà dico, si sente bambino, diciamo, questi momenti di leggerezza sono momenti di felicità, esatto. O momenti di rinuncia, questo è importante. Esatto, il fatto di avere, ripeto, una casa con pochi libri, pochi mobili, mi dà una sorta di gioia, ecco. È banale forse il mio. Non è banale, se lei se la gode, che lei gioiosamente, liberandosi di cadaveri di una vita, si sente più leggero, è fortunato lei. Noi siamo alla ricerca di formule di leggerezza, ognuno ha la sua formula. Non sarebbe leggero imporre anche la formula di come essere leggeri. Adesso vi faccio una mia confessione personale. Io una ventina di anni fa, ma forse anche più, i primi anni che avevo cominciato faticosamente a lavorare, faticosamente perché amavo fare il vitellone e passare le giornate leggermente e leggiadramente, mi sono però reso conto a un certo punto che non può essere sempre così, scrisse una storia che mi era venuta in mente, era il frutto di alcuni miei incubi giovanili, fanciulleschi. È una cosa che mi faceva molto paura. Io sognavo di passare da bambino in una sorta di grande campo coltivato di cocomeri, davo un calcio a questo cocomero, in realtà la testa di un vecchio. Mi accorgevo che i vecchi man mano uscivano da terra, crescevano come se fossero delle piante e camminavano, e man mano camminavano diventavano bambini. È meraviglioso, perché mi sono reso conto che poi Benjamin Button è esattamente la stessa cosa. Rotola, rotola, alla fine si fermò sbattendo contro qualcosa di flaccido e freddo che urtato emise un grido di dolore. E in un lampo capì che genere di frutti stava maturando ai piedi di quegli strani alberi. Un esercito di orribili vecchietti spuntava qua e là dal terreno molle e ben concimato. Di alcuni emergeva soltanto il cranio canuti, altri già mostravano le schiene ingobbite e contorte, attraverso le quali affioravano scapole così appuntite da far pensare che da un momento all'altro potessero bucare la pelle. Altri ancora, accucciati sulle rotule sporgenti, attendevano, contemplandosi le caviglie, che la terra rendesse loro i piedi ancora sommersi. Anche io, evidentemente, da bambino pensavo che la leggerezza sarebbe stato questo: conquistare da grande una condizione infantile, una condizione di leggerezza. Mi scrive Anna, è un valore difficile da conquistare, la leggerezza. Sono appesantita dai doveri quotidiani che poi in definitiva me li sono scelti, e affrontare le problematiche della realtà, specialmente nel lavoro, rende impossibile l'essere leggeri. 800 24 00 24, siete proprio convinti che sia impossibile essere leggeri? Poco più in là, alcuni vecchietti erano ormai del tutto fuori, trascinandosi a fatica si muovevano carponi dalla pianta che li aveva generati. A mano che si allontanavano, però, come un fanciullo ai primi passi, acquistavano sempre più sicurezza. Addirittura davano l'impressione di prendere via via vigore. Di fatto, la lenta processione dei vecchi cominciava a dipanarsi verso la valle luminosa. Ma mentre coloro che avevano appena abbandonato la terra erano stanchi e cadenti, quelli che più si avvicinavano alla testa del corteo sembravano gradualmente guarire dal morbo senile per arrivare ai capofila, eretti e impettiti, nel fiore dell'adolescenza. Questa era la mia illusione bambinesca, che essere leggeri significava da vecchi in realtà diventare come bambini. Ora che vecchio sono, ho qualche dubbio che questa sia la formula leggerezza. Melog 2.0. Per la prima volta in vita sua sentì una struggente nostalgia per l'attimo che stava vivendo. Mai più come allora avvertì l'immenso privilegio della condizione infantile. Il passato, troppo prossimo per appartenere al ricordo, si rifugia in uno scrigno che solo l'età matura andrà a riaprire. Il futuro, grazie ad un immaginario incorrotto, già vive, diluito in un eterno presente. 800 24 00 24, stiamo cercando di mettere assieme la formula della leggerezza, perché la leggerezza è un valore, la leggerezza equivale a felicità, la leggerezza è l'antitesi di tutte le condanne a chi non si vuole prendere responsabilità. In realtà la persona che ama essere leggiadro, leggero, contro le regole e il sistema nel quale viene immerso ogni giorno, ma non per senso di antagonismo fine a se stesso, ma semplicemente perché rompere la regola significa leggermente trovare delle fessure di felicità, è la persona privilegiata, e questa è la conquista più difficile. Mi scrive Massimo, citandomi una frase di un film di Tarkovsky, Stalker, dice: la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce tenero e flessibile, quando è duro e secco muore. Rigidità e forza sono compagne della morte, debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Quindi essere flessibili equivale a sentirsi leggeri. Essere flessibili significa non essere rigidamente allineati o riflettere rigidamente l'ambiente che in quel momento vorrebbe che noi fossimo in quella maniera. Serena, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Sono di Perugia anch'io. Brava. Allora, non c'è nulla di leggero in quella città, una città pesantissima alla quale sono leggermente fuggito. Prego. Ma non lo dica, per carità, dopo ne riparliamo più tranquillamente. Allora, ieri aprendo... Liberarsi delle proprie radici natali significa una leggerezza immensa, non ne porta niente, assolutamente nulla, d'essere nato in un certo posto. La schiavitù anagrafica è una delle prime forme di pesantezza. Anzi, non ho per niente piacere a sentire persone che mi ricordano luoghi a me cari. Prego. Allora, le dico subito questo. Ieri era una giornata piuttosto uggiolosa. Sono 20 righe, gliele posso leggere? No, mai. È una cosa pesantissima. Rischia la motosega. O lo dice con parole sue. Lei l'ha letta prima quelle che le hanno scritto. Io posso farlo. Non leggere la mia. No, perché è una rottura di scatole, signora. O lo dice con parole sue o la seguo. Allora, c'era questa brutta giornata ieri che proprio era uggiolosa. E c'era una specie di spiritello che voleva ballare al di sopra della nebbia. E che si trovava imbrigliata. In che zona? In queste bollicine. Ma dove stava lei quando è successa questa cosa? Ieri mattina, quando ho aperto gli sportelloni. Di dove? Luogo fisico, via? Abito in una collina vicino a Perugia, una bella collina, piena di verde. E c'è questa atmosfera di primavera che in questi giorni io la sento e che mi aiuta a superare questo senso di oppressione. Ma perché è oppressa? Perché questa stagione non mi fa sentire particolarmente leggera. Io mi sento leggera quando sì, c'è. Sì, ma infatti, guardi, ieri mi ha detto il marketing di questa radio: bravo, stai acquistando pubblico giovanile, che è naturalmente uno dei target. Ma perché lei pensa che io sia una giovane? No, non lo penso per niente. No, per questo mi fa finire la frase, non lo dico. Niente. No, mi ha detto: è diminuito il numero dei pensionati che ti ascoltano. Dico, beh, ci credo, con questo freddo è chiaro, è normale. Prego. Comunque io questa no, non si aggiunga questo numero di calo di pensionati, ecco. No, io comunque sono una persona che sta dappertutto in qualunque ambiente e senz'altro la meraviglia della primavera è quello che più si confà al mio carattere e a 70 anni provo ancora questa empatia con questa amica primavera. E quindi io la ringrazio questa stagione stupenda, che è un paradiso in terra di anime speranzose. Io sta leggendo. Un'anima speranzosa. No, sta leggendo, non mi frega, signora. Lei sta leggendo. E certo, mica sono. E non deve leggere. Lei. No, guarda, non è brava, signora. Io non sono bravo. Le dico semplicemente. Lei c'ha memoria, io non ce l'ho. Io mi impappino perché sono emozionata. Lei parla da un pulpito privilegiato perché è abituato a parlare in pubblico. Se io, con sta tremarella con cui tengo in mano sto microfono, mi mettessi come adesso a dire cose, mi impappinerei, no? Ma non si sta impappinando, senta come parla leggermente. Lo sa perché? Se noi cerchiamo la formula leggerezza, lei non deve avere la schiavitù di avere un foglio scritto per esprimere quello che esprime benissimo, l'ho già espresso, già l'ha detto, dicendo uggioloso, che è un termine tipico perugino, che aggiunge una circostanza additiva a luggia. Essere uggioloso è luggia inquinata da quella tramontana nebbiosa che c'è in quella terribile città. Quindi già mi ha espresso poeticamente il suo stato d'animo, dicendo che lei insegue la primavera. È sufficiente questo. Già nella parola primavera c'è tutto quello che vuol dire. Quindi il suo compitino lo tenga lì, lo troveranno i suoi nipotini, saranno felici. Quando la nonna, che bel racconto ha scritto, ma non ce lo legga. Però io, se non avessi scritto ieri questi pensieri che mi erano venuti in mente, oggi non sarei qui con lei a dialogare. E beh, c'è stata, questo è stato un momento leggero e di grande felicità per me. Buongiorno signora, andiamo a un punto importante, visto che l'amore per la citazione pervicacemente opprime il nostro pubblico, e adesso beccatevi allora le lezioni americane di Italo Calvino. Italo Calvino, l'ultima cosa che fece prima di morire appunto di una brutta malattia, fu chiamato da un'importante università americana ad esprimere attraverso alcune lezioni quello che era il senso, ma diciamolo chiaramente, di angoscia del mondo del pensiero della letteratura per il millennio che stava finendo. Si dicevano tutti: dove andrà a finire la letteratura? E la prima di queste lezioni americane di Calvino era proprio sulla leggerezza. Italo Calvino, da Lezioni Americane. Nei momenti in cui il regno dell'umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell'irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio. Devo guardare il mondo con un'altra ottica, un'altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica. Le immagini di leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come sogni dalla realtà del presente e del futuro. Leonardo, buongiorno. Buongiorno. 29 anni, quindi lei è sulla buona strada di avviarsi verso un'età matura in cui la leggerezza sarà considerata probabilmente un limite al suo crescere. Beh, io sono abbastanza maturo, essendo anche già padre e marito. Io volevo dire semplicemente che per me la leggerezza è stata... ho fatto l'artigiano per 5 anni, è stata... chiudere la partita IVA e trovare, perché comunque nel tempo che hai nella giornata per da dedicare al lavoro e alla famiglia, ho preferito appunto essere più sereno, meno stressato e avere più tempo per la famiglia, e mi sento meglio. È un'operazione doverosa, anche piacevole, ma etica dare tempo alla famiglia, non è un atto di leggerezza. L'atto di leggerezza è fuggire anche a quel amoroso dovere di occuparsi della famiglia. Lei non lo sta facendo per sé. Stare con la famiglia è piacevole, tutti piace stare con i figli, con le mogli, con ciò che si è costruito, nei limiti del possibile e del tollerabile. Ma il vero atto di leggerezza è andare contro anche a questa piacevole imperativo etico, o sbaglio? Esatto. E quindi? E quindi prima che mi lasse la linea avevo mille cose da dire, adesso sono... No, perché lei sorride, quindi ha capito ciò che intendo. È ritagliarsi momenti di leggerezza anche nelle pieghe del possibile e del lecito, o anche dell'illecito e del torbido dell'impossibile, se uno vuole, perché uno si pone anche dei limiti estetici e morali alla propria leggerezza, non è più leggero, degli spazi di leggerezza. Alla precarietà dell'esistenza della tribù, siccità, malattie, influssi maligni, lo sciamano rispondeva annullando il peso del suo corpo, trasportandosi in volo in un altro mondo, in un altro livello di percezione, dove poteva trovare le forze per modificare la realtà. In secoli e civiltà più vicini a noi, nei villaggi dove la donna sopportava il peso più grave di una vita di costrizioni, le streghe volavano di notte sui manici delle scope e anche su veicoli più leggeri, come spighe o fili di paglia. Prima di essere codificate dagli inquisitori, queste visioni hanno fatto parte dell'immaginario popolare, o diciamo pure del vissuto. Credo che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione desiderata e privazione sofferta. È questo dispositivo antropologico che la letteratura perpetua. È qualcosa in più rispetto a ciò che noi dicemmo quando parlammo delle streghe alla fine dell'anno passato. Le streghe volavano sulla scopa, questa scopa che era ricoperta di una sostanza naturale che dava ebbrezza, euforia, e quindi volavano in tutti i sensi, anche solo volavano con la mente. Ma le streghe volano su una spiga di grano, su un filo di paglia, quindi è ancora più leggero anche il supporto, il veicolo della loro stregonesca leggiadria. Streghe in quanto leggere, l'essere strega, l'essere colta con il marchio d'infamia vuol dire andare contro la regola, e molte volte andare contro la regola è un grande atto di leggerezza. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Io, come dicevo prima alla redattrice, trovo che ci sia una specie di sottotraccia tra stupidità e leggerezza. Forse alla leggerezza tutti associano il termine stupidità, no? Atteggiamenti inconsapevoli, giovanilistici da parte degli adulti. Secondo me invece la leggerezza è una cosa che si acquisisce con gli anni. Ho trovato sciocco quel paragone sull'albero, la flessibilità. Personalmente sciocco, perché era una citazione da un film di fantascienza. Sì, Tarkovsky, non ricordavo il film, però conosco Tarkovsky, però lo trovo sciocco ugualmente, perché secondo me sono gli anni che passano che possono dare leggerezza. Io ne ho 50, li sento tutti, sarei un cretino se non li sentissi. Sono esperienza, sono gioie, sono dolori, sono la mia rete sulla quale da 50 anni posso anche fare qualche cialtronaggine. Siamo acrobati e più passano gli anni più la rete si spessisce, ci dà più sicurezza. Ecco, questa secondo me è la leggerezza. Ecco, questa è una cosa molto giusta. Con la consapevolezza dell'età matura che cresce, camminare sul filo come un funambolo e vivere come una grande conquista attimi di leggerezza che ci sono sempre stati imputati come rallentamenti verso la via della maturità, forse è una delle formule che dà maggiore felicità. Melog 2.0. Oggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime, come i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni, i quark, i neutrini vaganti nello spazio infinito dei tempi. Poi l'informatica. È vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza dell'hardware, ma è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software. Si evolvono in modo di elaborare programmi sempre più complessi. Ecco, il timore di quell'epoca, era l'anno 1985, era che l'informatica portasse via ispirazione poetica. Quando Calvino parla di software e di hardware nell'85, immaginate cos'erano i computer, cos'era l'idea, la concezione di macchina per pensare. Oggi il computer è una protesi per le proprie emozioni, per prolungare, dilatare, allargare ogni nostra capacità di avere delle sensazioni. Qualcos'altro, si fondono i due concetti di concretezza e di leggerezza. È una macchina, sì, è qualcosa che va oltre l'ordine naturale delle cose, ma in realtà stiamo noi perdendo anche questa concezione della naturalità come gabbia. Noi stessi amiamo prolungarci attraverso delle macchine. Quindi leggero è anche vincere il pregiudizio rispetto al fatto che delle macchine ci aiutino ad uscire dalla nostra condizione di pesantezza umana. Barbara, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando leggermente. Sì, Io ritengo che la leggerezza sia anche un sinonimo di letizia, e uno può essere lieto nella vita, veramente in tutte le cose, anche quando sono un po' difficili, complicate. Sì, non è che sia facile essere lieti nella vita, diciamocelo. Però si può, certo. Si può. Quando uno ne conosce abbastanza chiaramente lo scopo, il fine, le cose diventano leggere. Non trova, è una domanda, che l'atto di leggerezza molte volte è un atto sconsiderato, di follia. L'atto folle è ciò che ci rende leggeri. No, saremo leggeri e felici solo quando saremo folli. Invece il bello della vita è che si può essere felici sempre. Sì, ma non sei felici sempre, questo è un assoluto paradosso. Non sei felici sempre nella vita. La felicità deve essere un momento privilegiato. Una felicità eterna c'è soltanto per chi ha la fede, dopo una retta via in un abbraccio con l'assoluto. La vita non è felice. Ha detto bene, c'è soltanto quando uno ha fede, però il fatto è che... Sì, ma io voglio essere leggero adesso, poi spero di esserlo. Infatti quello che vive una persona che realmente crede nella vita, non è solo per il futuro. Va bene, signora, non la sento leggera, la sento contenta e quindi rispetto la sua felicità. Davide. Sì, buongiorno, volevo citare due arti marziali molto famose in Giappone, che sono sia l'aikido che il judo. Mm-hmm. Che trattano proprio questa capacità di essere, nel loro principio, leggeri. Quindi morti. Oddio, ha detto due arti marziali perfettamente antitetiche. Il judo è un'arte marziale moderna, competitiva, molto fisica. L'aikido è un'arte marziale, forse la più spirituale delle arti marziali. Quindi sì, sono in antitesi tra loro. Scusi alla puntualizzazione, ma sì, non è la stessa cosa. Come principio, poi alla fine era sul principio, diciamo, di sfruttare la forza della verità, cioè l'arte della... Sì, ma dov'è la leggerezza in due corpi pesanti, sudati, che si misurano per sopraffare l'uno all'altro? Leggerezza sarebbe mollare, andarsene e lasciare lì la persona nella sua pozza di sudore, secondo me. Questo sì, nell'aspetto competitivo del judo, che però scompare nell'aikido, questo vorrei precisarlo. Certo. Poi un'altra bella frase di San Paolo, che dice: io sono debole e quindi sono forte. Adesso se lei mi corregge magari su quella che è la frase corretta dei... Non sono mica un pozzo di scienza. Vuole, me la cerco su Google mentre faccio finta di ascoltarla e gliela dico, ma che ci importa? L'importante è che lei l'abbia sentita così, interpretata così. Anche le citazioni hanno una maniera leggera di far parte poi della nostra esperienza. A me piace sovrascrivere e cambiare, falsificare le citazioni e le fonti e farle mie, e questa è anche una maniera leggera di concepire il sapere. Esiste una leggerezza della pensosità, così come tutti sappiamo che esiste una leggerezza della frivolezza. Anzi, la leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come pesante e opaca. Ecco, questa ve la metto proprio in coda, è la formula che condivido in pieno: la leggerezza pensosa e la pesante frivolezza. Chi fa il giornalista come me sa che l'esigenza quotidiana è mettere qualcosa che alleggerisca. Nella pesantezza del quotidiano mettiamo qualcosa che alleggerisca. Chi fa televisione sa che la formula della televisione è comunque dare un'idea leggera della complessità. E chi comunque si muove nel mondo sa che bisogna essere simpatici e leggeri, quindi cialtroni, quindi idioti, quindi vuoti, quindi fuggire da ogni complessità attraverso l'idiozia. Quando in realtà la vera complessità è proprio la formula della leggerezza che stiamo cercando noi soltanto di scalfire questa mattina. Paola, buongiorno. Buongiorno, sono di Bergamo. E questo significa che si sente meno leggera del resto del mondo? La città non è di una grande leggerezza. Sì, è vero, non è una città molto dogmatica, quindi non è leggera. Io proprio questa mattina sto facendo un lavoro con i miei armadi, ma non per cambiare le stagioni, ma per alleggerirmi di cose. E quindi sto riempiendo degli scatoloni per portare in un luogo che c'è qui in città, dove si può donare, lasciare queste cose e alleggerirsi la casa. Ma il concetto è proprio legato al bisogno, è un bisogno mio di leggerezza. Tant'è vero che anche ieri sera era un'esperienza di biodanza, mi piace molto la biodanza. La biodanza è quella cosa che si fa per stare un po' appiccicati e farsi delle pomiciate senza sentirsi in colpa, vero? No, non è proprio così. Beh, oddio. Lei la dice in maniera molto... Un amico mio gli hanno portato via la moglie con questo sistema. Addirittura. Sì, a forza di biodanzare se l'è trovata un po', come si dice in Toscana. C'è un proverbio che non posso citare alla radio, comunque. Comunque prima parlavate di carezze. Chi porta la sua moglie ad ogni festa, fa bere la mula ogni fontana, in capo all'anno la mula è bolsa e la moglie non lo diciamo. Ma tutto ha un suo equilibrio, giusto? Certo. Quindi si tratta anche di capire noi stessi che cosa pretendiamo da un'esperienza, che cosa siamo in grado di accettare. No, ma io sono felice perché lei mi ha dato veramente una formula di leggerezza in fine trasmissione. Lei sta votando casa di scatoloni e di roba vecchia, le dà una grande felicità. Però può sentirsi buona perché la dà alla carità, se la daranno ai poveri. Lei fa la biodanza, quindi può dire che si occupa del proprio corpo, della propria psiche, ma in maniera leggiadra si può creare dei momenti di inconfessabile felicità. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.